casa e non è ancora sera, è come calda Roma in questo fine primavera. Tu che a spalle nude studi e cerchi me, come la tua voglia di mare, e le persiane chiuse sui nostri corpi, come metalli a raffreddare, mentre il fiume dei miei pensieri segue il filo delle tue labbra, sul bicchiere in cui bevi la sigaretta che fumo e le stelle che sono città. Voglio avere solo te, voglio avere solo te nei miei occhi. Soltanto della tua nudità, adesso che è finita, l'unica cosa che manca è il mio cuore. Ucciderti non mi servirà, per quanto tempo avrò nella mente il tuo profumo, sei come il mare che non ha senso, che viene e va, mentre il filo dei tuoi pensieri segue il filo delle mie labbra, il bicchiere la sigaretta che fu e le stelle che sono città. Voglio avere solo te, voglio avere solo